Mango Tart legge Man A Cold di Sen Lin Yu. Capitolo 7. I tre giorni seguenti passarono più o meno nello stesso modo. Il tavolo appariva puntualmente ogni sera alle 7:30. Hermione andava a chinarsi su di esso qualche minuto prima delle 8. Malfoy entrava, eseguiva e poi se ne andava senza una parola. Nel mentre lei recitava poesie a se stessa e cercava di portare la sua mente il più lontano possibile, qualsiasi cosa pur di non pensare a quello che stava succedendo al suo corpo. Lei non era lì. Era sdraiata su quel tavolo perché era stanca. Tracciava con le dita le sottili venature del legno. Forse era quercia o noce. Appena le era permesso di lasciare il tavolo, si metteva a letto e pregava che arrivasse il sonno. Non le era permesso di lavarsi fino al mattino seguente e non voleva sentire la sensazione di quel liquido tra le gambe. Cercava di non pensarci, non mentre accadeva, non dopo, non la mattina dopo. Cercava di non pensarci mai. Non c'era niente che potesse fare. Cercava di spingerlo via in un angolo della sua mente, di portare la sua mente il più lontano possibile dal suo corpo e rimanere lì. Quando si svegliò, la mattina dopo il quinto giorno, avrebbe voluto piangere. Era così sollevata che tutto fosse, almeno temporaneamente, finito. La mortale sensazione di orrore che risiedeva nel suo stomaco si attenuò debolmente. Si alzò e si lavò, strofinando ogni centimetro di sé stessa maniacalmente. Poi si fermò con risoluzione davanti alla porta della camera da letto. Sarebbe uscita. Sarebbe uscita dalla sua stanza ad esplorare almeno 4 delle altre stanze lungo il corridoio. Era determinata a farlo, ne avrebbe esaminato ogni centimetro, cercando di trovare qualche potenziale arma con cui uccidere Malfoy. Aveva immaginato la sua morte in una moltitudine di modi creativi durante gli ultimi giorni. Si era tenuta viva solo con il fervido desiderio di vedere la luce svanire dai suoi occhi. Avrebbe dato qualsiasi cosa per conficcare una lama nel suo freddo cuore. Era disposta ad accontentarsi di strangolarlo o avvelenarlo. A parte Voldemort e Antonin Dolohov, non c'era nessun'altra morte che Hermione desiderasse così ardentemente. Dolohov era il principale sviluppatore della divisione maledizioni di Voldemort. Le maledizioni più orribili emerse nel corso della guerra erano attribuibili a lui. Si chiese se fosse vivo e se stesse ancora inventando nuovi metodi con cui uccidere le persone con agonizzante lentezza. Ora, Dolohov e Malfoy erano quasi alla pari. Non era sicura di chi dei due volesse più morto. Probabilmente ancora Dolohov, suppose, anche se il numero di cadaveri era probabilmente uguale. Almeno Malfoy non era così sadico. Aprì la porta e uscì. Non si fermò a chiuderla dietro di sé. Non si diede il tempo di bloccarsi. Si precipitò lungo il corridoio nella stanza più vicina. Quando si chiuse la porta alle spalle, lasciò cadere la testa contro il telaio e si costrinse a respirare. Respiri lenti e profondi. Spinse l'aria fino in fondo ai polmoni e poi lentamente fuori fino a un conteggio di 8. Le tremavano le spalle e le si contraevano le dita. Si voltò risolutamente per esaminare la stanza. Era quasi identica alla sua, ma con 2 sedie e un chaise. Si girò, osservando tutti i dettagli generali. Mentre lo faceva, quasi imprecò quando vide un dipinto sul muro. Era una natura morta olandese, un tavolo di fiori e frutta. Accanto al tavolo c'era la strega del ritratto nella stanza di Hermione. La stava guardando con espressione vagamente di sfida. Avrebbe voluto lanciare qualcosa contro il quadro, ma strinse le dita a pugno e si costrinse a non reagire. Camminò lentamente intorno alla stanza, sbirciò nell'armadio, sotto il letto, nel bagno. Si infilò dietro le pesanti tende invernali e guardò un'altra sezione del labirinto di siepi. Controllò ogni asse del pavimento, ma nessuna di esse cigolava. Naturalmente non poteva essere così facile. Fece un respiro profondo e si costrinse a camminare lentamente nella stanza accanto. Era quasi esattamente la stessa. Il ritratto la seguì e fece la guardia in un ritratto di un picnic in stile impressionista allestito accanto a un fiume, sgranocchiando con gusto il formaggio mentre la studiava. La terza stanza era la più promettente. Non che contenesse qualcosa di anche lontanamente utile, ma il bagno conteneva una doccia. Il cuore le sussultò leggermente. Non vedeva l'ora di farsi una doccia. Lavarsi i capelli in una vasca da bagno era solo una delle innumerevoli cose che odiava della sua vita. Quando si era svegliata nell'infermeria di Hogwarts dopo essere svenuta, i capelli e il corpo le erano stati massacrati per rimuovere tutti quei mesi di sporco. Non riusciva a ricordare l'ultima volta che si era lavata i capelli come si deve. Proseguì nella stanza successiva. Continuò ad andare avanti. I suoi attacchi di panico sembravano leggermente più sotto controllo quando si concentrava sul passaggio da una stanza all'altra, contando lentamente fino a 4, con ogni respiro inspirato ed espirato. Era soprattutto il corridoio che la disturbava. Il vasto, l'aperto, lo sconosciuto. Le singole stanze erano più contenute, gestibili. Si fece strada attraverso tutte le stanze aperte nel corridoio. La cosa più vicina all'utile che trovò in ognuna di esse fu un attizzatoio da camino, che non poté toccare. Tornò nella sua stanza e si rannicchiò sulla sedia vicino alla finestra. Si sentiva smarrita. Cosa avrebbe dovuto fare? Chiuse gli occhi. Le si strinse leggermente lo stomaco. Aveva bisogno di avvicinarsi a Malfoy. Lui era la cosa più vicina a una chiave che aveva. Se rimaneva un mistero, non avrebbe avuto modo di prevedere in che modo lui era o non era attento. Sembrava meticoloso. Tutto era infrangibile. C'era un ritratto in ogni stanza e in ogni bagno, ma nessuno era perfetto. Tutti avevano qualche debolezza. E lei avrebbe trovato quella di Malfoy e l'avrebbe usata per finirlo. Sarebbe stato, ovviamente, un gioco tra gatto e topo. Ogni debolezza che lei avesse scoperto, lui l'avrebbe trovata rapidamente nella sua mente. Se non avesse saputo nulla di lui e avesse solo cercato di essere imprevedibile, lui l'avrebbe comunque visto nella sua mente. Il trucco sarebbe stato conoscerlo abbastanza bene da potersi muovere più velocemente di quanto lui potesse fermarla. Il pensiero di stargli vicino era terrificante. Sibilò debolmente tra i denti e si rannicchiò più strettamente. Il solo pensiero di essere esposta a Malfoy le fece scivolare una sensazione di terrore simile a un ago lungo la spina dorsale che le si arrotolò nella parte bassa della schiena. Seppellì la faccia nella sedia. L'avrebbe fatto. Ce l'avrebbe fatta. Ma non ancora. Aveva bisogno di qualche giorno in più per orientarsi, per distaccarsi dai 5 giorni che aveva appena passato. Forse in un paio di giorni l'avrebbe fatto. Ma Malfoy non le diede il tempo di orientarsi. Entrò nella sua stanza mentre lei stava finendo di pranzare il giorno dopo e lei ne fu così inorridita che quasi urlò. Lui rimase in piedi a fissarla per diversi secondi, mentre lei si aggrappava allo schienale della sedia e cercava di non accasciarsi. Perché era lì? Cosa voleva? Stava per violentarla di nuovo. Torse le dita mentre cercava di stabilizzarsi. I suoi occhi freddi e pallidi scivolarono su di lei come se stesse prendendo nota di ogni dettaglio. Qualcosa tremolò in essi quando notò le mani. Ma quel qualcosa svanì rapidamente in un'incrollabile, attenta freddezza, come una vipera l'istante prima di colpire. «Non hai seguito le istruzioni», disse lui dopo averla studiata per un minuto. Hermione lo fissò, senza parlare. Non doveva andare in altre stanze? Nessuno le aveva detto che non poteva. Avevano detto che le era permesso uscire dalla sua stanza. Si rese conto, mentre il suo stomaco si annodava, che probabilmente era stato un trucco per dargli l'opportunità di punirla. Sentiva come qualcosa conficcato in gola mentre cercava di inghiottire il terrore e indovinare quello che lui le avrebbe fatto. «Dovresti stare all'aperto per un'ora tutti i giorni», disse lui per chiarire, le labbra debolmente contorte. «Visto che esci a malapena dalla tua stanza, questa serie di istruzioni è stata da te apparentemente ignorata. Non permetterò che la tua instabilità mentale interferisca con la mia capacità di obbedire al mio signore». Gesticolò bruscamente verso la porta, poi si fermò e la guardò di nuovo. «Ah, il mantello!» Hermione scosse la testa debolmente. Lui fece una smorfia e roteò gli occhi. «Immagino che lasciarti congelare sarebbe visto come negligenza e tortura», disse con un sospiro. Estrasse la bacchetta e con un colpetto evocò un pesante mantello rosso intenso che le gettò addosso. «Vieni!» Uscì dalla sua stanza e andò in fondo al corridoio. Lei lo seguì automaticamente mentre la conduceva giù per la scala principale dell'ala e fuori, su una grande veranda di marmo. Hermione sussultò quando uscì e sentì la brezza gelida sul viso. Si morse il labbro e cercò di stabilizzarsi mentre rimaneva sulla porta. Lui si voltò bruscamente. «Che c'è?» chiese, gli occhi d'acciaio stretti. «Non esco dal giorno in cui Harry è morto», rispose lei, con la voce che si incrinava debolmente. «Avevo dimenticato com'è il vento». Lui la fissò per diversi secondi prima di sbuffare e voltarsi. «Hai un'ora, vai», disse, evocando una sedia e tirando fuori dal nulla un giornale. Gli occhi di Hermione si fissarono immediatamente sui titoli che riusciva a scorgere. Era così affamata di informazioni che quello attirò la sua attenzione più acutamente della brusca sensazione di essere all'aperto. «Programma di ripopolazione in corso», dicevano le parole in alto. Sentì qualcosa contorcersi dentro di lei. Strinse le labbra e guardò altrove. Malfoy notò il suo sguardo. «Vuoi vedere?» chiese lui in tono lento che le fece accapponare la pelle. Sentì lo schiocco della carta che si srotolava e diede un'occhiata solo per trovare una sua foto, incosciente in un letto d'ospedale, sulla copertina del Daily Prophet. La fissò con orrore. «La sangue sporco di Potter è tra le prime surrogate scelte dal Signor Oscuro per ripopolare la popolazione magica!» era il riassunto incluso sotto il titolo. Malfoy lo guardò con un sorrisetto. «Guarda, sono incluso anch'io!» La sua bocca si contorse in un sorriso sottile e malizioso e i suoi occhi scintillavano mentre indicava una sua foto più in basso nella colonna. «Nel caso in cui qualcuno in tutto il mondo voglia sapere esattamente chi ti sta scopando e dove sei». Si sentiva come se stesse per vomitare nel vaso dell'abete blu vicino alla porta. «Pensavo che fosse una trappola piuttosto ovvia», aggiunse Malfoy con un sospiro, distogliendo lo sguardo da lei e appoggiandosi alla sedia. Aprì il foglio con un'espressione annoiata. «D'altra parte, la vostra resistenza non è mai stata famosa per l'intelligenza. Qualcosa di più sottile probabilmente sarebbe sfuggito. Il Signor Oscuro spera che, se c'è ancora qualcuno rimasto, si senta moralmente obbligato a venire a salvarti come è sempre piaciuto fare a Potter». «Oddio! Tutto il mondo sapeva che Voldemort l'aveva trasformata nella schiava sessuale di Malfoy per il programma di ripopolamento. Era stata usata come esca». Hermione barcollò indietro, sentendosi svenire. Doveva allontanarsi da Malfoy e dalla sua crudeltà prima che la sua mente si spezzasse. Si mise una mano sulla bocca mentre inciampava sul sentiero di ghiaia. «Se ti perdi nel labirinto di siepi, manderò i miei segugi a trascinarti fuori». La voce dura di Malfoy sembrava seguirla. Lei corse via. Non correva da anni, ma si era tenuta abbastanza in forma nella cella. Tutti i salti e le flessioni, tutto quello che aveva fatto per spegnere la mente. Aveva bisogno di staccare la mente, non poteva pensare, aveva bisogno di muoversi, fino a quando non avrebbe più potuto farlo. Si precipitò lungo il sentiero finché questo non si aprì in una corsia. Sfrecciò verso il basso, le siepi torreggianti intorno a lei la soffocavano. Tutto la stava soffocando. Alzò le mani e slacciò il mantello che Malfoy le aveva dato. Sentì il vento strapparglielo via. Avrebbe preferito congelare. Corse e corse finché le siepi non finirono e la strada continuò attraverso grandi campi. Continuò ad andare avanti, perché se si fosse fermata, avrebbe pensato. E se avesse pensato, avrebbe pianto. Non poteva piangere. Non finché non avesse trovato un modo per scappare ed evitare che i membri superstiti della resistenza cercassero di salvarla. Oh Dio! Oh Dio! Alla fine si fermò. Sentiva i polmoni in fiamme. Il bisogno di ossigeno, lancinante e bruciante, era acuto. Il petto si gonfiava. Tutto il suo corpo era madido di sudore che rapidamente diventò freddo e pungente sulla sua pelle. Aveva un odore lancinante al fianco. Le sue scarpe erano quasi in pezzi, la gonna intrisa di fango. Si alzò ansimando e si voltò per osservare dove si trovava. La tenuta dei Malfoy sembrava infinita. Colline grigie di erba morta e gruppi scuri di alberi senza foglie in lontananza. Il tutto contro un cielo grigio. Era come se tutto il colore fosse stato lavato via dal mondo. Tranne lei. Lei era vestita di rosso scarlatto. Scarlatta contro il monocromo. Si premette le mani sulla bocca mentre continuava a rantolare e ad ansimare. Quando finalmente il suo petto cessò di gonfiarsi, si rese conto gradualmente di quanto freddo stesse sentendo. Il vento era pungente, le sferzava i vestiti sottili. Le mani le stavano diventando bianchissime. Poteva sentire le guance e la punta del naso che lentamente iniziavano a farle male. C'era una sensazione di gelo nelle dita dei piedi che cominciava ad irradiarsi su per le gambe mentre l'acqua le si infilava nelle scarpe e nelle calze. Si voltò a guardare indietro nella direzione in cui era venuta. Le siepi erano minuscole in lontananza. Si premette le mani ghiacciate contro gli occhi per diversi minuti, cercando di pensare. Non c'era niente. Niente di nuovo. Niente di più che potesse fare. Il suo piano era rimasto lo stesso. Niente era cambiato. La sua situazione era esattamente la stessa della sera prima. L'unica differenza era che la sua conoscenza della situazione si era leggermente ampliata. Le opzioni erano ancora altrettanto limitate. La posta in gioco era stata semplicemente alzata ulteriormente. Si voltò lentamente indietro. Dubitava che Malfoy avrebbe davvero mandato dei segugi a cercarla. Essere sbranata da un branco di cani da caccia avrebbe potuto interferire con le sue capacità riproduttive. Si chiese oziosamente se le manette le avrebbero permesso di combattere contro un animale attaccante. Se fosse stata davvero tanto disperata da voler morire, forse avrebbe potuto gettarsi sulla strada di una creatura mortale. Uno come Malfoy avrebbe potuto tenere qualcosa come una manticora nascosta nella tenuta, o forse, se c'erano trappole per i suoi aspiranti soccorritori, poteva gettarsi in una di esse. Cominciarono a batterle i denti mentre si avviava lungo il viottolo verso le siepi. Era troppo stanca per correre ancora e cercare di scaldarsi. Si strinse le braccia al corpo e proseguì. Non le era venuto in mente che Voldemort avrebbe pubblicizzato gli sforzi di ripopolamento. A posteriori, era ovvio. Non era un segreto che poteva essere mantenuto facilmente quando stava distribuendo surrogate a 72 delle più preminenti famiglie di maghi della Gran Bretagna. Meglio metterlo completamente alla luce del sole. Si chiese oziosamente come si sentisse Malfoy ad essere pubblicamente associato a lei. La sangue sporco che aveva odiato così tanto a scuola, ora sarebbe stata la madre dei suoi figli e tutto il mondo l'avrebbe saputo. Era così servilmente obbediente a qualsiasi cosa volesse il suo padrone che probabilmente lo razionalizzava in qualche modo. Sogghignò tra sé e sé in segno di derisione. Il numero di modi in cui riusciva ad odiarlo era quasi sbalorditivo. Ogni volta che lo vedeva, era come se scoprisse un aspetto completamente nuovo di lui che si aggiungeva al numero di ragioni per cui meritava una morte lenta e crudele. Le rocce appuntite del viottolo di ghiaia alla fine le tagliarono interamente le scarpe. I piedi cominciarono a sanguinarle mentre raggiungeva le siepi. Si tolse le scarpe, ormai inutili, e le gettò nel tasso dove si incastrarono. Il rosso fangoso spiccava nettamente sulle foglie. Continuò, rabbrividendo. Quando finalmente tornò al Manor e girò l'angolo, trovò che Malfoy era ancora lì, a leggere un libro. Aveva messo il giornale da parte. Si fermò, esitando. Non voleva interagire con lui, ma aveva un freddo agonizzante e non sapeva come altro entrare. Il suo movimento o il suo colore attirarono l'attenzione di Malfoy. Alzò lo sguardo bruscamente e la fissò, con aria debolmente agitata mentre osservava il suo aspetto trasandato. Poi aggrottò un sopracciglio e sorrise. «Stai prendendo sul serio il tuo status, vedo. Rosso, sangue e fango». Ridacchiò debolmente per un momento prima che la sua espressione diventasse dura. «Non avresti dovuto perdere il mantello. Hai ancora...» Guardò l'orologio. 10 minuti prima che ti sia permesso di entrare». Hermione si rattrappì per la miseria e tornò indietro intorno al lato del Manor. Trovò un posto un po' al riparo dal vento e si raggomitolò contro l'edificio in una palla stretta, cercando di conservare il calore del suo corpo. Aveva così freddo, ma aveva smesso di rabbrividire ed era lievemente assonnata, il che, si rese vagamente conto, indicava l'ipotermia. Non aveva mai trattato la vera ipotermia durante la guerra, solo la varietà che portavano i dissennatori. Non era qualcosa di cui i maghi tendevano a soffrire. Gli incantesimi di riscaldamento erano così semplici che la maggior parte dei maghi al primo anno era in grado di eseguirli, e l'abbigliamento magico di solito aveva gli incantesimi intessuti dentro. Sarebbe dovuto andare a dire a Malfoy che la sua temperatura corporea stava diventando troppo bassa, ma se avesse aspettato, forse ne sarebbe morta. Questo avrebbe risolto tutti i suoi problemi. Si rannicchiò più vicino al lato del Manor e chiuse gli occhi. Respirò debolmente. Tutto era diventato confortante, vago, creativa. La voce dura di Malfoy invase la nebbia della sua mente. Qualcosa di scomodamente caldo le colpì tutto il corpo. Spaventata, Hermione guaì. Si rese conto dopo un momento che lui le aveva lanciato un incantesimo di riscaldamento. Il drammatico contrasto di temperature era stato fisicamente doloroso quando la magia dell'incantesimo si era scontrata con la sua pelle. Lui si stava già allontanando quando lei alzò lo sguardo. Orrido bastardo. L'aveva riscaldata quanto bastava per contrastare l'ipotermia, ma non abbastanza per alleviare il freddo pungente che sentiva. Si rannicchiò contro la casa e cercò di indovinare quando sarebbero passati 10 minuti. I piedi e le mani le dolevano fino alle ossa per il freddo. Era dispiaciuta di aver perso il mantello. A quanto pareva, le era rimasta ancora un po' di impetuosità da Grifondoro. Quanto bastava per permettersi di fare, occasionalmente, cose molto stupide. Ora che la sua rabbia e il suo orrore si erano leggermente attenuati, era in grado di apprezzare di più la sua idiozia impulsiva. Cercare di farla pagare a Malfoy rifiutando le cure che lui era obbligato a fornirle non faceva male a nessuno se non a se stessa. Era come rifiutarsi di mangiare. Indebolirsi per dimostrargli che poteva ancora essere ostinata era l'esatto contrario di quello che avrebbe dovuto fare. Malfoy non sarebbe diventato imprudente se avesse pensato che lei avesse ancora voglia di lottare. Si stava tagliando il naso per fare un dispetto alla faccia. Gemette e sbatté la testa contro il muro del Manor. Un minuto dopo, un rumore di ghiaia scricchiolante attirò la sua attenzione. Alzò lo sguardo e trovò Malfoy che le si avvicinava ancora una volta. La sua espressione era fredda come il vento. Allungò la mano e le fece cadere il mantello ai suoi piedi. «L'hai trovato?» disse, guardando in basso. «La magia, l'incantesimo accio, è abbastanza utile per quelli di noi che possono ancora usarlo», disse lui con un sorriso crudele. «Hai intenzione di alzarti o devo trascinarti? Ho qualcosa di più da fare nella vita che limitarmi a controllarti. Ci sono tanti babbani ancora vivi ed anche diversi elfi domestici che non ho preso a calci ultimamente», le sorrise debolmente. Hermione si morse la lingua. Raccogliendo il mantello, si alzò e se lo avvolse addosso. Lui girò bruscamente sui talloni e tornò a grandi passi verso la veranda. Si fermò vicino alla porta e aspettò che lei lo raggiungesse. Quando lo fece, si accorse che era leggermente impallidito e stava fissando il terreno dietro di lei. Si voltò e vide che aveva lasciato impronte insanguinate sul marmo bianco. Diventò debolmente contemplativo mentre la studiava. «Sorpreso di sapere che il nostro sangue è uguale?» chiese lei con voce mite. Lui sogghignò. «Tutto il sangue è uguale. I miei segugi sanguinano allo stesso modo e anche i miei elfi domestici. Alla domanda sulla superiorità si risponde con il potere. Dato che io sono il padrone dei segugi, degli elfi e di te, credo che la risposta a questa domanda sia sufficientemente chiara. Eppure sono io quella destinata a darti degli eredi», disse Hermione, incontrando il suo sguardo con la sua stessa espressione fredda. «Questo è dovuto al fallimento di Astoria, non al mio», rispose lui, arricciando debolmente il labbro. Estrasse la bacchetta e ripulì il sangue dal marmo. Poi sospirò e sgranò gli occhi. «Suppongo che non posso permetterti di rovinare i tappeti, anche se sarebbe divertente lasciarti sanguinare». Le puntò la bacchetta ai piedi e le ripulì prima di lanciarle una serie di noncuranti incantesimi di guarigione. Poi pulì il fango che le stava imbrattando l'orlo della veste. «Confido che il tuo cervello funzioni ancora abbastanza da trovare da sola la strada per la tua stanza. Altrimenti puoi anche dormire sul pavimento da qualche parte». Scomparve con uno schiocco. Hermione rimase sola davanti alla porta per diversi secondi. Stava gelando, ma... Si precipitò e prese la copia della Gazzetta del Profeta che aveva lasciato a terra. Scivolò attraverso la porta e si spostò abbastanza lontano nei corridoi per allontanarsi dal freddo pungente prima di aprirlo in fretta e cominciare a divorare ogni traccia di informazione che contenesse.